con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosto. Siamo ritornati, Garam Masala. Piccola, piccolissima, una pausa brevissima, quella della scorsa settimana a causa influenza, o perlomeno per quanto riguarda me. Robertino invece stava bello beato in lo diciamo in Portogallo, vedi. Ciao a tutti, come va? Garam Masala, questo è l'appuntamento del venerdì qui a Radio Etno Espresso, dalle 21 alle 23. Il nostro, come diciamo anche negli spot, il suono del clubbing. Salvo Borrelli da questa parte, Robertino Agosta che cura la regia. Oggi un appuntamento ricco, come sempre, tra roba originale, in sottofondo ancora va in qualche modo la sigla di apertura, con tanta roba rieditata in questo viaggio tra funky, soul, deep house, house, afro, elettronica. Boh, vediamo un po', seguiteci e non me ne pentirete. Brano di apertura dato a Dave Hamilton, questa era Ain't a Groove con questa Soul 45 Instrumental, all'interno di un'etichetta importante nel genere, parlo della Coal Mine Record, la produzione del 2013 e l'album dal quale abbiamo estratto la traccia è Detroit City Grooves. Adesso invece arriva un progetto fresco nuovo, si chiamano JB Boogie, questa è Boogie Face. We'll be right back. E siamo in pieno suono disco, in qualche modo la nuova disco JB Boogie con Boogie Face. Questo è comunque un artista che già da tempo è presente sulla scena disco funk, sta dentro tantissime etichette come la Spin Cat Music, la Discovery, eccetera eccetera, ed è comunque uno che con questo genere ormai ha creato il suo status, va benissimo. Classico in Garam Masala, la prima parte un po' dedicata ai suoni più funkettoni, e continuiamo con una traccia recente, anche se comunque se all'ascolto ci ricorda il passato. Lui si chiama Jacques Renaud, questa è Get Down. Jacques Renaud, Get Down. Lui è cofondatore della Let's Play House, che è una etichetta, Let's Play House Record, che è un'etichetta di Brooklyn, insieme a Nick Mercer, insieme a James Friedman, un'etichetta fondata nel 2009, ed è uno comunque un esperto, uno di quelli che piazza tantissimi re-edit, tantissime robe. Adesso è uscita fuori questo EP di 4 tracce, e questa suona abbastanza vintage. Restiamo un po' nel filone funkettone, Robertino, ma sì, yeah. Dai. Si chiamano, arrivano da Denver, si chiamano Funk Hank, questo è Funkier Than That, Garam Masala. Thank you. Recentissima Soulfission presenta SBM con questa Got Habit, e una collaborazione con Blunted Monks. Così leggevo in giro, ho visto un po' che la particolarità che comunque è stata registrata durante una jam session. Garam Masala in qualche modo così apre, mette giù questo tappeto, ci addentriamo in quello che è il suono tipico del nostro appuntamento. Il venerdì cercheremo di accompagnarvi, di portarvi verso i club, verso la notte, verso gli appuntamenti che stasera vi renderanno partecipi di una buona serata, spero sicuramente con tanta buona musica. Arriva invece adesso Lord Echo, questa è The Sweetest Meditation con questo Club Mix Radio Edit. We'll be right back. fresco, dicevo, questo è Robertino, questa è una di quelle tracce che comunque veramente ti danno un po' questa gioia di vivere, ecco, non vorrei esagerare, però questa leggerezza, questo modo, su dai andiamo, mettiamo su un brano, andiamo in macchina, Roberto, con questa si può andare benissimo in macchina. Lord Echo, The Sweetest Meditation, questa era una club mix Radio Edit, feat Marati K all'interno di quest'album che prende il nome di Ermoli del 2017. Lui è un produttore che arriva dalla Nuova Zelanda e si chiama effettivamente Mike Fabulous. Noi andiamo avanti fino alle 23, questo è Garam Masala, l'appuntamento che va tutti i venerdì qui su Radio Etn Espresso. Lui è, allora, uno che è nato sull'isola di Wight in Inghilterra, cioè voglio dire, pilastro assoluto del suono disco europeo, mondiale dovrei dire, non europeo, ma si chiama Joey Negro, è uscito questa sua ultima produzione all'interno della quale abbiamo estratto questa traccia cantata da Diane Charlemagne, che ci ha lasciato da poco, proprio durante la realizzazione della produzione del disco di Joey Negro. Il brano è Prove That You're Feeling Me, questa è una Joey Negro Club Mix. Garam Masala, buon ascolto. David Lee, sì, in arte è Joey Negro. Chi non conosce Joey Negro? Il brano è Prove That You're Feeling Me, con la voce di Diane Charlemagne. È evidente che comunque in qualche modo si sta evocando all'interno di questo brano il grande Nile Rodgers degli Chic, il suono è quello, Bass Lane, gli orchestrali, e poi comunque la voce di Diane sicuramente conferisce a questa traccia una qualità veramente senza tempo. Noi restiamo dentro questa queste produzioni che ci portano all'interno della, del suono disco, e lo facciamo adesso con Hey and S, con questa At Cost, è un VS Precious Edit, ma dietro ci sta lui, si chiama Valik, poi vi racconto chi è Valik. We'll be right back. Hey and S has no cause con questo VS Precious Edit. Dietro questo edit ci sta Valik, che è una DJ, musicista, compositore, cantautore, produttore, remixer, cioè, ingegnere del suono, cioè, potremmo dire di tutto, uno che dal 1990 sta dietro comunque il suono in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi generi, specifico in qualche modo potremmo definirlo, proprio per come siamo abituati noi ad ascoltare o a classificare i generi, come un freestyle. Uno che nel 1997 fondò addirittura una delle più importanti band elettroniche jazz della Russia. Lui suonava xilofono, vibrafono, percussione, addirittura creò anche gli arrangiamenti. Comunque dal 2001 continua a produrre a manetta ed è uno che comunque riesce sempre a lasciarci con un profumo, con delle cose particolari all'interno delle sue nuove produzioni. Garam Masala continua fino alle 23. Garam Masala, il suono del clubbing. Think about something for the intro, Blue. I'm not gonna do too much talking on this, though. I'm not sure if they're ready for this blue step. Garam Masala, il suono del clubbing. L'originale è di Foxy, Get Off Your and Dance. Questo è un remix, anzi un edit di Danny Krivit. Più che parlare di Foxy, spenderei due paroline su Danny Krivit. Cioè, nel senso, Foxy va bene, appartengono a un periodo storico della disco, cantante bianco, 6 o 7 elementi sul palco, non ricordo esattamente bene, un po' sul Wachuari, sulla disco un po' così free, divertente, va benissimo. Ma come non si fa? Come si fa a non parlare di Danny Krivit? Comunque pilastro unico, assoluto. Pensate che da ragazzino il papà era non ricordo bene se credo produttore di Chet Baker addirittura, proprietario di un locale importantissimo a New York. Quindi lui già da ragazzino bazzicava praticamente con grandi artisti. Mi ricordo che ho letto in una sua intervista che parlava di questo suo primo appuntamento da DJ per andare a ritirare dei White, così rilasciati brevi in mano da chi? Da James Brown addirittura. Quindi Danny Krivit, uno che a tutt'oggi è un elemento importante in quello che è il racconto, la storia della club culture, uno che ha comunque remixato, rieditato di tutto, lo ha fatto benissimo. Anche in questo caso, anche nel brano di Foxy, ha aggiunto all'inizio queste percussioni, perché lui poi è delicato, pulito, cioè uno di quelli che comunque ha tantissimo gusto, senza stravolgere più di tanto la traccia, però ha messo su dentro delle cose, questo flauto, queste percussioni, e questa sicuramente è una di quelle tracce che funzionano alla grande. Un po' mi ha portato questo suono in Africa, si chiama quello che arriva adesso, Ikebe Shakedown. Questa è Kurisiba Strat Afro. E siamo in pieno sound boogie nigeriano, in qualche modo si chiama Ikebe Shakedown. Questa è Curitiba Strut. Questa è una band di 7 africani che si è formata a Brooklyn nel 2008 e noi dal 2008 andiamo al 2012 con una traccia di un duo che per tanto tempo si è ritagliato una scena, una condizione importante all'interno della scena house, nella scena di house, perché no, anche soprattutto in questo caso per la traccia che abbiamo appena preparato, nel suono un po' afro. Loro si chiamano Matteo e Matos, uno dei due stava all'interno di un programma radiofonico, poi ha conosciuto l'altro, sono diventati amici, hanno cominciato a lavorare con Vega, che li ha introdotti nella situazione, e per tantissimo tempo hanno fatto delle produzioni molto interessanti. È da un po' di tempo che non si sente parlare di loro. Questa traccia del 2012 l'abbiamo estratta da un album che prende il nome di Mysteries of the Rhythm. Questa è Afro Style, Garam Masala. The Sound of Gara Masala. Clubbing. Questa sera Gara Masala ospita DJ Nature con questa What Is It? È un estratto da un album del 2017 che prende il nome di Ultimate Delusion per la Future Bookie Recording come label. Lui è uno che comunque sin dal 1990 produce e suona sotto inizialmente lo pseudonimo di Nature Boy, arriva da Bristol, quindi uno di quelli che comunque da tantissimi anni massica il suono buono. Ricordiamoci che da lì arriva il trip hop, arriva tutto il resto, ma noi qui non facciamo cultura musicale, ma facciamo ascolto musicale. Se volete andare avanti su delle informazioni, su delle cose, non mancano i canali per andarsi a informare. Noi adesso andiamo subito con una traccia, alziamo un po' il BPM perché Gara Masala è un po' pazzoide sotto questo punto di vista. Questa è elegantissima, proprio raffinata, ma perché è nella sua caratteristica. Byron the Aquarius, questa è Song for a Friend. Si chiama Byron de Aquarius, questa è Song for a Friend, questa è una ballata jazzy, elegante. Questo è un EP di 4 tracce per questo produttore che adesso esce su questa Eagle Record. Beh, il profumo è quello, no? Poi è stato spesso presente qui a Garam Masala. Garam Masala 22:10, se leggo bene l'orologio qui davanti, l'appuntamento del venerdì, Radio Eterno Espresso, dalle 21 alle 23. Salvo Borrelli, la regia è curata dal buon Roberto Agosta. Il nostro è un viaggio all'interno dei suoni che in qualche modo appartengono a quello che è il clubbing, quindi dall'house, deep house, afro, hip hop, jazz, cioè stiamo dentro tante cose e cerchiamo di farlo un po' così, viaggiando attraverso anche i BPM. Siamo partiti da un ascolto molto funkettone, siamo arrivati fino a delle cose un po' afro, adesso siamo questa deep, molto jazz. Adesso andiamo a prendere un artista invece che arriva da Rotterdam, si chiama Bass Russ, questa è Take Life Easy. Non è un brano pazzesco, un luppone da viaggio. Garam Masala, questo è Garam Masala. chiama Buzz Roos, questa è Take Life Easy. Lui arriva da Rotterdam, è uno di quei DJ che in qualche modo hanno tirato l'attenzione di artisti più forti come Phil Wick, per esempio. Beh, quello che abbiamo passato adesso è un mega luppone che in qualche modo ci portava, ci introduce per quello che adesso sarà il suono di Garam Masala, rivolto soprattutto a quello che è il suono deep house di recente produzione. E proprio di recente produzione arriva questa traccia che in questo momento, per me, a mio avviso, una delle migliori che ci siano in circolazione. Lui si chiama Lawrence Road, questa è On Top ed è una produzione per la Dirty Crew Recording, una di queste label, di queste etichette che ormai sfornano singoli e tracce a non finire di altissima qualità. Questo è un bel dippone di quello là col piano che suona e questa è Garam Masala. Aram Masala. Viaggio di Aram Masala, vi facciamo compagnia al fine settimana, siamo nel week dalle 21 alle 23, Radio Etna Espresso, Salvo Borrelli, la console qui a cura di Robertino Agosta, e ancora mai in sottofondo questa produzione su Bitter Listen Record, parlo di Cody Cori con Beer Machine, estratto da questo suo Sophomore EP del 2013. Comunque lo stile è quello, abbastanza profondo, molto simile a quello che sono i maestri in qualche modo, perché sono partiti prima, si chiamano Brain e Amo, oppure gli stessi Fook. Lui è un giovanissimo che arriva da Londra e comunque sa il fatto suo per quanto riguarda il concetto di dance floor rivolto ai suoni di questa Deep House, nuova Deep House. Robertino, andiamo. Lion Revel Amber arriva da Bordeaux, Garam Masala. Leon Revel, questa Amber, lui è un giovanissimo produttore che arriva da Bordeaux e comunque sta dentro il nuovo suono di Paus, quello che piace tantissimo a Garam Masala e che va dentro quest'ora, perché sono le 22:32 e noi andiamo avanti fino alle 23. Adesso il salto è semplice perché andiamo a Jarle Brotin, questa è Flot Var, lui invece arriva dalla Germania. Suona deep anche lui, Garam Masala. We'll be right back. Jarlé Brothin, questa è Flotvar, arriva dalla Germania, un po' così, ho sentito questa cuffia che arrivava proprio piantata sul bancone in questo momento. Garam Masala, andiamo avanti fino alle 23, questo è l'appuntamento Radio Etna Espresso, Salvo Borrelli, la regia di Roberto Agosta, tutti i venerdì, 21-23. In pieno suono di Paus, in pieno suono del Wick, vi accompagniamo così, vi prendiamo a braccetto per andare fuori di casa e andare così a fare un salto nei club. Sono le 22.38 e noi le assaporiamo con una progetto che arriva dalla Francia. Si chiama Doc Deneca, questa è Where You At. We'll be right back. produzione che arriva dalla Francia, si chiama Doc Deneca, questa è Where You At. Andiamo avanti perché alle 23 Garam Masala vi deve salutare. Continuiamo con questo suono, con questo mood, questo è il fine settimana, questo è il week di Garam Masala. Entriamo con Run With Scissor, questa è Let You Know, per un'etichetta che prende il nome di Fancy Human. Questa è Let You Know per la Fancy Human. Siamo vicini alla chiusura, Garam Masala. Questo è l'appuntamento che va tutti i venerdì qui su Radio Etna Espresso. Salvo Borrelli, la regia è curata da Roberto Agosta. Beh, noi ormai questo è il secondo anno che stiamo qui dentro Radio Etno Espresso. L'anno scorso siamo partiti con il mercoledì, quest'anno abbiamo fatto il salto nel week perché ci piaceva, grazie anche comunque alla direzione di Radio Etno Espresso, ci piaceva comunque accompagnarvi in quello che è il viaggio del weekend, il viaggio che ci porta dopo una intera settimana al lavoro tra studio eccetera eccetera ad andare a ballare, andare a fare un po' di casino nei club. Noi lo facciamo a modo nostro, con il nostro suono, con la nostra cultura tra virgolette, cultura gusto e gusto musicale. Adesso arriva un progetto che suona da tempo, la produzione del 2017, si chiama De Musia, questa è Move su Freelance Record. Back. Austriaco che sin dal 2007 mette su delle buone cose. Pensate che il suo passato reale è quello di musicista, di batterista, ci ha suonato la batteria per 10 anni, poi a un certo punto così all'improvviso è scoppiato e è andato a suonare ovunque. Cioè, partito praticamente dalla sua città fino ad arrivare a Parigi, arrivare nelle grandi capitali europee a proporre i suoi set. Garam Masala credo che sia giunto al termine, sono le 22:56 di questo venerdì 13. In che mese siamo, Roberto? Ottobre. Salvo Borrelli, Roberto Agosta qui io accanto a me. Non lo facevamo da tempo, stasera un po' c'è venuta questa voglia di fare una chiusura su un brano con un mood molto più slow, molto più tranquillo. E abbiamo pensato di farlo con una traccia di Kirian Kai. Questa è FF, un brano al quale noi siamo molto legati. E abbiamo pensato di salutarci in questo modo. Noi ci risentiamo la prossima settimana, quindi venerdì, sempre qui su Radio Eten Espresso, con Garam Masala. 21:23. Salvo Borrelli e Roberto Agosta. Ciao. Show.